di parlare, eh? Soscio. E quando sei venuto a Baccampari, eh? O Finocchio. Tanto c'ho anche la schiuma da barba, domani ti schiumo tutto. Faccio finta di pagarti la barba e poi ti schiumo tutto, anche nel culo. Tu li sei mutante che te la metto bene la schiuma, caro. Tanto tua madre non si aiuta, te la voglio mettere tutto in culo. Io così quando c'era la raccoglie c'era scritto pronto il cazzo. Faccia del culo, hai capito, Falcone? Perché il cazzo non funziona più. Sì, perché l'ha dato un pezzo a tua madre, guarda il culo di tua madre. Sono comprato. Ma non lo sai se tu cerchi mia madre, cerchi tua madre. Tanto vedi, è staccato il telefono perché c'hai tu la faccia di merda, no? Vedi? Che c'hai tu, assieme a quell'altro della Radio Gamma, eh? Radio Gamma? Ma questo con chi c'era? Io Froschi, non le faccio dormire, capito? Ti faccio come ho fatto a qualche altro. A te ti brucia, vero? Tanto ti faccio bruciare io, bene, aspetta. Credi che io mi arrabbio? Mica mi diventa tarefo. 200 lire, ma schiacchi. Tu credi che la tua ragazza invece sono io che ti faccio schiattare? Tu mi hai preso un po' tante e credi di fare paura a me, eh? Per farmi uscire luce come l'anno scorso, come me hanno fatto uscire qualche altra persona, come faceva Piero Drago. Falcone, ciucu ciu. Non mi incuri che me ne impero, capito? Vabbè. Domani non preoccupare.